Benvenuti, state per ascoltare il podcast dell'Istituto Comprensivo Nino Cortese di Casoria. In occasione del Safer Internet Day, in classe abbiamo riflettuto sull'importanza delle parole, che possono aiutare, ma possono anche fare male. A volte le parole fanno più male di un pugno. Ricordo che una volta sul gruppo WhatsApp della nostra classe abbiamo preso di mira uno dei nostri compagni, senza motivo. Ma per fortuna i nostri genitori ci hanno fatto capire che stavamo sbagliando. La gentilezza è un linguaggio universale ed ha la capacità di far stare bene gli altri, sempre e soprattutto nelle circostanze più difficili. È una cosa che viene dal cuore, che non ha bisogno di essere né vista né sentita, e per essere gentili basta anche solo un semplice sorriso. Avete ascoltato il podcast dell'Istituto Comprensivo Nino Cortese di Casoria.